Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi, lo dico subito, inizieremo anche a dare conto, non di tutte, è impossibile dare conto delle centinaia di mail che stanno arrivando a Radio 24 dopo l'iniziativa che abbiamo lanciato, Oscar Giannino e io in primo luogo, ma tutta la radio, disperati mai sugli imprenditori in difficoltà vista la ondata di suicidi purtroppo che ha accompagnato questo inizio d'anno. Dicevo, è impossibile rispondere a tutte le vostre mail né citarle tutte. Ne abbiamo raccolte alcune di emblematiche, poi ci siamo ripromessi e vi promettiamo che faremo anche una giornata speciale dedicata a questo orgoglio e disperazione nello stesso tempo di imprenditori ma anche liberi professionisti che ci hanno scritto, raccontando storie. Chiaramente ogni storia è individuale, ma all'interno di ogni storia individuale c'è un percorso purtroppo comune di delusione, di orgoglio, di rabbia, di paura e in alcuni casi anche di profonda disperazione. Ancora su questo, devo dire che abbiamo ricevuto anche moltissime mail di persone che si sono offerte di dare una mano. Questo l'ho trovato obiettivamente encomiabile e anche sorprendente, da liberi professionisti che come atto di volontariato vogliono mettersi a disposizione, penso a psicologi ma non solo, anche consulenti del lavoro di questi imprenditori in difficoltà, a altre associazioni onlus che hanno detto: noi siamo disponibili se venisse messa in piedi una rete a dare il nostro contributo. Manca, c'è un convitato di pietra qui che si chiama politica in senso lato, cioè amministrazioni locali ma anche quindi comuni, regioni e anche amministrazioni a livello nazionale. Poche risposte su questo, devo dire. Sì, tutti prendono atto della difficoltà ma nessuno fa qualcosa. Vedremo invece se dall'incontro questa sera tra banche e Confindustria, quindi Musseri e Marcegaglia, arriverà poi un accordo in quello che il ministro Passera ha ventilato come il progetto di girare parte, utilizzare il mondo bancario per riuscire a ripagare in parte gli imprenditori che vantano 70-100 miliardi di euro dalla pubblica amministrazione. La cifra ipotizzata è circa 20 miliardi come prima tranche. Si dice che potrebbero essere pagati o con obbligazioni o con una triangolazione col mondo bancario, per cui lo Stato si fa garante e a questo punto la banca può concedere un prestito. La via più semplice sembrerebbe essere quella delle obbligazioni, però è di Stato, cioè lo Stato ti paga con dei titoli che devi portare a scadenza, però li dai alle banche. A quel punto le banche sanno che tu fra 3, 4, 5 anni godrai di quel prestito, cioè lo Stato ti tornerà indietro i soldi che tu gli hai prestato. Ancora tra i temi, come vanno le borse? -1,42% Milano, -1,50% Parigi, -0,35% Francoforte, +0,5% invece Londra, +0,20% l'America. E di nuovo le tensioni sono sull'area euro. Per finire però, scusatemi, di queste lettere, di queste testimonianze parleremo diffusamente alle 18:05 in poi, ne parleremo anche domani, continueremo a parlarne nelle prossime giornate, citando dei casi che secondo noi sono emblematici, cioè che rappresentano le centinaia di mail che stanno arrivando ogni giorno a Radio 24. Oscar Giannino ha già iniziato la mattina, lo faremo anche noi per poi arrivare, immagino, a una giornata anche proprio di grandi speciali su questo. Tornando ai mercati, chi va bene? Autogrill +2,10%, Snam +1,60%, chi va male? Mediobanca -4,40%, Fiat -3,60%, Monte dei Paschi -3,30%, Intesa San Paolo -2,90% come Telecom Italia e UbiBanca e Finmeccanica. Buzioni c'è un perde del 2,70% come la Popolare di Milano, il 2,60% lo perde Mediaset, il 2,5% Unicredit, il 2,30% Enel, il 2,20% è il calo della Popolare Emilia Romagna, il 2% quello di ST Microelectronics ma anche di Campari. Euro a quota 1,31,33 sul dollaro. Di questo parleremo, ma anche della vicenda fondiaria SAI e delle nuove preoccupazioni che aleggiano sull'Europa dopo il rapporto del Fondo Monetario Internazionale, ma anche il rapporto dell'OCSE di oggi. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Se ci fosse stato bisogno di una conferma delle difficoltà delle piccole imprese, soprattutto quelle legate al mercato interno e ai consumi, non le medie che possono esportare e produrre anche all'estero, dicevo, se uno avesse avuto bisogno di una conferma è arrivato l'OCSE oggi a dargliela, perché il numero di fallimenti, dice l'OCSE, tra piccole e medie imprese italiane nel 2010 è aumentato a 11.300, praticamente 20 casi ogni 10.000 aziende esistenti, ed è il doppio di quanto non avvenisse nel 2009. E siamo a tre volte i fallimenti nel 2007. Nel 2007 praticamente fallirono 6.165 tra piccole e medie imprese, nel 2010 11.300. Il doppio quindi. Ancora, sempre l'OCSE dice, in Italia i prestiti a breve termine alle piccole e medie imprese hanno mostrato un marcato rallentamento con l'intensificarsi della crisi finanziaria. Le condizioni di credito si sono irrigidite, la domanda di credito delle aziende è calata. E tra l'altro l'OCSE ricorda che le piccole e medie imprese costituiscono il 99,9% delle imprese italiane, cioè su 4.470.748 imprese, 4.467.000 sono piccole e medie, cioè 3.000 sono in realtà grandi. E poi il direttore del Centro per l'Imprenditoria dell'OCSE dice, l'allarme di credit crunch per le piccole e medie imprese, quindi di ristrettezza sul credito, di giro di vita sul credito, è giustificato. E poi c'è un allarme lanciato dalla Confcommercio del Friuli Venezia Giulia che dice che più della metà delle 6.763 imprese nel settore terziario, quindi servizi, del Friuli Venezia Giulia hanno chiuso nel 2011 a causa della crisi. Mentre in Sicilia, così torniamo anche al ritardo nel pagamento della pubblica amministrazione, in Sicilia sono 1.000 le imprese fallite a causa del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione. Solo a Palermo hanno chiuso i battenti 199 imprese. Emerge dai dati regionali sui fallimenti pubblicati oggi dal Sole 24 Ore. Una buona notizia invece riguarda Fincantieri, che ha firmato un accordo con la Viking Ocean Cruises, che è il nuovo brand di Viking River Cruises, per costruire due navi da crociera e un'opzione per una terza unità. Le due navi sono unità extra lusso di piccole dimensioni, potranno portare 1.000 passeggeri, 500 cabine, ma è importante perché Fincantieri ha bisogno, per mantenere gli occupati, di commesse navali. No, a chi scrive una precisazione, l'OCSE dice che è calata sia la richiesta di credito, cioè gli imprenditori chiedono meno soldi, sia le erogazioni di credito. E poi salta l'esenzione dei ticket per le prestazioni diagnostiche strumentali e altre prestazioni specialistiche in favore dei disoccupati e dei familiari a carico. Sembra una norma che creerà più di una polemica, di una discussione, perché insomma, levare l'esenzione dal ticket, cioè fare pagare il ticket anche al disoccupato. Nel frattempo c'è chi, lo dico senza nessun giudizio di valore, chi si sta avvantaggiando di questa situazione in Europa e si chiama Germania. Non voglio tornare sulla solita polemica, però è un dato di fatto che la Germania, grazie alle riforme che ha fatto nel passato, e ci mancherebbe, ma grazie anche a una banca centrale che fa quello che vuole lei, un'Europa che fa quello che vuole lei, la Germania ha tassi per i prestiti bancari che sono negativi, cioè conviene indebitarsi piuttosto che tenere i soldi da un'altra parte, perché sono sotto zero gli tassi reali. La crescita viene vista al rialzo nel 2012, cioè Spagna, Italia, Portogallo, ma anche Francia avranno difficoltà nel 2012, la Germania invece crescerà più del previsto. E ancora, le imprese tedesche non sono mai state così competitive da 30 anni a questa parte. Tant'è che ieri il governo tedesco ha annunciato che dal prossimo luglio le pensioni di 20 milioni di tedeschi saranno alzate del 2%. Questa è la situazione nella Germania Felix. Tutto il resto dell'area euro, di cui la Germania si preoccupa così intensamente, è invece in estrema difficoltà. C'è un rapporto del Fondo Monetario di cui ieri abbiamo parlato, ma ci sono anche notizie nuove sullo spread, in questo caso quello francese. Allora parliamone, 349-238-6666 per i vostri sms. Perché oggi è tornata a parlare il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Ha detto: noi non siamo severi con l'Italia, vogliamo solo che torni l'equilibrio e che il paese cammini con le proprie gambe. Questa è la risposta a chi le aveva chiesto come mai era stata così severa, il Fondo Monetario era stato così severo sulle stime per l'Italia. Infatti, dato di ieri, il pareggio di bilancio, cioè il deficit pari a zero, l'Italia lo centrerà solo nel 2017, e l'FMI prevede un PIL negativo, quindi una recessione anche nel 2013, meno 1,9 quest'anno, pesante la botta, e meno 0,3% nel 2013. L'Italia sarà in una situazione di quasi pareggio, però, secondo il governo, invece, nel 2013. E sempre secondo il governo, nel 2013 il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,5%. Nel frattempo lo spread tra Francia e Germania è salito ai massimi da gennaio, 140 punti, per carità, l'Italia è a 3,90, la Spagna a 422. Però insomma anche la Francia è tornata ai livelli più alti dall'11 gennaio scorso, smentite però le voci secondo cui Moody's, l'agenzia di ratings, sarebbe pronta per tagliare il voto al debito francese. Sarebbe un'azione molto delicata abbassare il voto alla Francia quando mancano una settimana per le elezioni presidenziali, poi se non ricordo male il ballottaggio è il 6-7 maggio, comunque insomma siamo in pieno campagna elettorale. Verrebbe vista come un'intrusione politica, non c'è dubbio. Mentre le banche danesi hanno dato il ben servito a Moody's. Le banche della Danimarca hanno infatti deciso di non avvalersi più dei servizi dell'agenzia di rating americana a causa delle sue opinioni mutevoli. Chissà che non capiti anche alle banche italiane o alle altre banche europee. Adriana Ceretelli, buonasera. Buonasera. Ti riabbiamo in collegamento perché tu sei tornata a scrivere sul Sole, e qui non c'è nulla di strano, ci lavori, ma hai scritto in prima pagina un articolo oggi che dice: Adriana Ceretelli era corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, storica corrispondente, sebbene sia giovanissima, e hai scritto: la tempesta non è finita. Sottolinei come il gioco dei dinieghi continuati rischi di farsi molto duro. Cosa vuol dire? Ma vuol dire che in sostanza, diciamo, finora si è cercato di porre rimedio alla crisi dell'euro con dei palliativi. ogni volta che si è cercato, diciamo, di risolverla con rimedi radicali, la Germania ha detto di no. Ha detto di no alla crescita, ha detto di no a una revisione del ruolo della BCE, e quindi, diciamo, quindi no agli Eurobond, alla mutualizzazione del debito, e quindi in questo modo, diciamo, invece che aiutare la stabilizzazione dell'euro, in realtà cronicizza i problemi dell'euro e naturalmente in una congiuntura politica come l'attuale, il 6 maggio prossimo ci saranno la Francia, la Grecia, l'Italia e due Länder della Germania che andranno a votare, i problemi e gli esiti elettorali, i malumori della gente rischieranno di aggravare ulteriormente, diciamo, le tensioni, e i mercati ci potranno marciare sopra molto comodamente. Ora, questa è certamente una prospettiva che inquieta, soprattutto perché ci sono molti che tendono a dire ma no, in realtà la crisi è finita. Ieri per esempio al Parlamento europeo c'è stato un dibattito su questo argomento e il Parlamento aveva invitato sia il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, sia il Presidente dell'Eurogruppo Juncker, sia il Presidente della Banca Centrale Mario Draghi a un dibattito appunto sulla crisi dell'euro e sulla crisi dell'Europa. Nessuno dei tre si è presentato, il che dice lunga, no, sull'imbarazzo, la delicatezza dell'argomento e probabilmente i dubbi sulla bontà di una politica, di una strategia o comunque di interventi che appunto sono di brevissimo periodo, vengono molto molto valorizzati quando si prendono decisioni, ma nella realtà contano pochissimo. Ecco, tu ricordi giustamente come il 6 maggio prossimo ci sia una specie di congiunzione astrale, perché da un punto di vista elettorale? Perché c'è il ballottaggio, se si andrà al ballottaggio, insomma, per sapere chi sarà il prossimo presidente francese e quindi per l'Eliseo, le elezioni legislative in Grecia, le elezioni amministrative in Italia e le regionali in due Länder tedeschi. Ecco, quali sono gli scenari che possono uscire? Lasciamo stare per un attimo l'Italia, ma diciamo, vincesse Jospin, possiamo attenderci una Francia più critica sulla posizione tedesca? Sicuramente vincesse Hollande, non Jospin. Sì, Jospin aveva già vinto, non lo rivolgiamo. Hollande. E certamente le cose cambierebbero, nel senso che non ci sarebbe, come scrivo, una rivoluzione, perché nemmeno i socialisti oggi potrebbero permettersela, nel senso che tutti sanno che con i mercati sul collo i margini di manovra al di là della Merkel sono quello che sono. Però certamente ci sarebbe, secondo me, perché Hollande lo annuncia, ci sarebbe un rinegoziato del fiscal compact, il patto di super disciplina di bilancio che appunto è stato concordato il mese scorso. Naturalmente nessuno immagina che questo patto possa essere in qualche modo smontato. Però quello che i francesi vogliono è che si aggiunga la variabile della crescita, che è un'esigenza a questo punto non solo francese, ma un'esigenza di tutta l'Europa del Sud, perché si va dimostrando ogni giorno che il rigore, diciamo, senza possibilità di crescita, in un ambiente di non crescita, è un rigore che non solo non può dare i frutti sperati, ma ormai non convince più nemmeno i mercati, e quindi diventa dell'autolesionismo puro in un clima di recessione come quello in cui viviamo. Non solo non convince i mercati, ma li spinge a speculare di nuovo su un'ipotesi che l'euro non regga, mettiamola così. Certo. Quindi diciamo un'eventuale vittoria di Hollande, se non fosse naturalmente, se non si rivelasse diciamo foriera di spinte anti-europee, di sfascio della situazione attuale, ma fosse, diciamo, una rivendicazione ragionevole di un riequilibrio delle cose, io penso che potrebbe essere positivo non solo per Hollande e la nuova Francia, diciamo, socialista, ma anche per paesi come il nostro, come la Spagna, come il Portogallo, come la Grecia, cioè come tutti i paesi che oggi attraversano questa difficilissima congiuntura in cui abbiamo riforme, rigore, tasse, eccetera, non compensate da una prospettiva di speranza, cioè da una prospettiva di crescita, perché è soltanto con la crescita che possiamo pensare di poter riassorbire la disoccupazione e diciamo vivere questo momento pesante di riforme in un clima positivo, in un clima in cui si veda un futuro migliore. Intendiamoci, la crescita non si fa per decreto legge né per direttiva e normativa europea, lo dico anche a chi scrive. Però è innegabile che in questo momento il motivo per cui l'Europa non piace, cioè si torna a vendere Europa nei portafogli dei grandi fondi, non è solo perché l'Europa cresce da poco, ma perché Warren Buffett, George Soros, Paul Krugman, premio Nobel d'economia, cioè dal mondo anglosassone arrivano critiche a un piano di tagli e tasse e tagli e tasse che porta inesorabilmente verso la recessione europea, senza che la Germania, diciamolo pure Adriana, abbia mai ceduto su nulla, perché a fronte dell'accordo sul fiscal compact, cioè sul rientro del deficit e del debito dei vari paesi, la Germania non ha mica fatto passare l'ipotesi di una banca centrale europea che può in ultima istanza garantire per le banche dell'area euro o stampare moneta. Certo, assolutamente no, al contrario, continuo a dire no, perché lo stesso Sarkozy, presidente francese, che rischia di essere battuto proprio per cercare di togliere terreno sotto i piedi di Hollande, che predica invece appunto una politica europeistica di minor sudditanza della Francia verso la Germania. Dicevo che proprio Sarkozy, che è stato il suddito della Merkel, in questi ultimi giorni di campagna elettorale ha auspicato una riforma del ruolo della BCE, proprio per renderla non solo diciamo prona agli imperativi antinflazionistici, ma per farne una banca centrale come la Fed che si occupa anche di crescita dell'economia, del dinamismo, insomma, dell'economia. Sì, un po' tardi Sarkozy si sveglia, perché molto tardi, ma questo per dire che il clima, l'esigenza di in qualche modo rettificare il tiro di questa politica seguita nell'ultimo biennio senza risultato, oramai è un qualche cosa che si va diffondendo persino nel campo di Sarkozy, certo per opportunismo, ma forse alla fine proprio perché il paese non lo segue è costretto a raddrizzare il tiro. Sì, devo dire che a chi scrive, ma insomma basta con questo atteggiamento antitedesco, no, abbiamo detto semplicemente che la Germania ha dei dati economici ottimi, che sicuramente il merito è suo, i dati li citavo oggi, che però è innegabile che in questa situazione che sta piegando, cioè l'obbligo di rientrare sul deficit, che sta piegando le economie di tutta l'area mediterranea, inclusa la Francia, che deve stare molto attenta, ebbene l'unico paese che trae un vantaggio da questa situazione è la Germania, tutto qui, che risultando il migliore della classe gode di un prestigio anche superiore a quello che non avrebbe se fosse un normale paese dell'euro. Questo si è detto. Adriana, io ti ringrazio, non mi sembra di vedere alcun segno, vedremo poi dopo il 6 maggio se dalla Francia soprattutto capiterà qualcosa, mentre ripeto e registro numerose critiche al piano tedesco, perché di fatto è il piano della Bundesbank, è il piano tedesco, Draghi l'ha un po' migliorato col prestito da 1.000 miliardi, molte critiche arrivare dagli Stati Uniti e la cosa mi lascia, Adriana, abbastanza impressionato, perché insomma se c'è un'economia liberale quella americana e dicono che noi stiamo sbagliando tutto. Sì, ma gli americani hanno un po' il dente avvelenato sia con la Cina sia con la Germania, proprio perché accumulano degli enormi surplus e secondo loro non fanno abbastanza per rilanciare la crescita mondiale. Che poi è un po' anche il problema che viene rinfacciato in Europa, perché paradossalmente gli surplus che la Germania ha verso il resto dei partner dell'euro sono pari a quelli che la Cina ha nei confronti del resto del mondo. Questo per dire che in effetti tutti devono fare la loro parte in questa partita. Cioè i paesi che si devono riformare e risanare devono farlo ma gli altri che invece stanno meglio, dalla Germania e i paesi nordici in generale, dovrebbero cercare di riequilibrare appunto questi grandi surplus che hanno accumulato e che ovviamente sono l'altra faccia dei deficit degli altri. Quindi, sì, esatto, ma è, nel senso che quello che è deficit per noi è avanzo commerciale per la Germania, certo, ma va anche detto che sarà importante vedere cosa capiterà poi con questo Sarkozy che si sta ravvedendo nell'ultimo. Lui ha giocato tutta la campagna dimostrando che l'asse con la Germania poteva tenerlo solo lui, e infatti Angela Merkel ha di fatto inaugurato la campagna elettorale di Sarkozy. Adesso si è reso conto che forse è stato un errore, cioè che forse essere così filo tedeschi non paga più nemmeno in Francia. Grazie Adriana Ceretelli, il meteo e la pubblicità, poi la borsa, Fondiere Assai e gli altri temi di questo programma. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni. Chiuso il tema che emergerà, ripeto, a fine mese, inizio maggio, dalle elezioni francesi, cosa potrebbe arrivare per e sulla posizione tedesca dopo l'allarme del Fondo Monetario, che ha certificato ieri che i paesi che stanno adottando le riforme giuste, perché era giusto a mio avviso innalzare le pensioni, sarebbe giusto tagliare la spesa pubblica da una parte, non di salari e stipendi, 132 miliardi, Giarda, il ministro Giarda ha detto che forse ne taglierà 5-7, mi sembra un po' pochino. Beh, dicevo, tutto giusto, ma a questo punto anche la Germania, che molti di voi plaudono perché dicono la Germania ha messo ordine nei suoi conti, è vero, si è rimessa in carreggiata da sola. Però decidiamo se la Germania debba stare nell'euro o l'euro sta nella Germania, allora tutti quanti si accollano un po' le responsabilità, si chiede agli stati un sacrificio ma si dà anche qualcosa. Se no, se invece uno non vuole dare nulla, allora non chiede neanche sacrifici, sciogliamo sto euro e basta. Insomma, perché è inutile chiedere sacrifici ai paesi che vanno in recessione e poi tu non sei mai disponibile a cedere nulla su elementi assolutamente, a mio avviso, sacrosanti come una banca centrale europea che può stampare moneta e garantire in ultima istanza per le banche europee la borsa. Meno 2% alla fine Milano, meno 2% Parigi, meno 0,90 Francoforte, più 0,16 Londra, invariata l'America, sì, Milano e Parigi sostanzialmente, di nuovo sui bancari, ma non solo, Mediobanca meno 4,40, Monte dei Paschi meno 3,5 come UbiBanca, Pop Milano meno 3,20 come Intesa San Paolo e Unicredit, tra i non bancari Fiat meno 4,10, Telecom meno 3,40, Mediaset meno 3,10, Buzzi Unice meno 3% come Finmeccanica ed ST Microelectronics, il 2,90 l'ha perso la Popolare Emilia Romagna, ma anche Enel, Green Power, il 2,5% il calo di Campari, il 2,30 di Eni, l'1,80% il calo di A2A e di Generali Assicurazioni, ma anche di Fiat Industrial e Pirelli. Tra chi guadagna invece Autogrill più 1,56, Snam Rete Gas più 1,12 e invariata Ansaldo STS. Come sempre il punto lo facciamo con i colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore, 349-238-6666 per i vostri sms. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Vabbè, downgrade della Francia, ipotesi di downgrade della Francia smentite, ma insomma quello ha tenuto banco oggi sui mercati. Sì, quello sicuramente. Downgrade vuol dire, scusatemi, l'abbassamento di voto al debito francese, che l'agenzia di rating Moody's potrebbe operare secondo le indiscrezioni. Prego. Sì, le solite voci che sono circolate sui mercati, che qualcuno, di cui qualcuno poi ha anche approfittato per vendere, e poi oggi ha tenuto banco anche la nuova asta spagnola su titoli più a lungo termine, a 10 anni il rendimento è salito nuovamente al 5,77%, la domanda è stata soddisfatta, certo con questi rendimenti c'è chi comunque acquista questi titoli, quindi questo ha portato anche ad allargarsi lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, quindi di conseguenza con un meccanismo che ormai conosciamo molto bene, purtroppo tutti i titoli bancari sono crollati sulla borsa di Milano, come dicevi tu. Ancora, tra i titoli, le banche le abbiamo citate, c'è però anche Fiat che perde parecchio. Martedì abbiamo visto le immatricolazioni. Ma le immatricolazioni che purtroppo per Fiat sono andate molto male, ha perso il 25% a marzo, a dire la verità, non è una novità per il gruppo del Lingotto, anche se a onor del vero oggi sono andati male tutti i titoli delle quattro ruote, anzi lo stocks di settore in Europa oggi è stato il peggiore e quindi Fiat oggi è andata addirittura sotto quota 4 euro, a 3,83 euro. Ancora, tra quelli positivi citavamo invece Autogrill e Snam. Sì, Autogrill è arrivata a guadagnare più del 4%, alla fine ha chiuso più 1,5%, qui il mercato scommette su un tema che è ormai ricorrente, che è quello dello spin-off, cioè dello scorporo, dalla società verrà scorporata, verrà isolata la divisione food and beverage, cioè quella legata poi alla vendita di bibite, di alimenti, e poi questa società, nuova società, potrebbe essere aperta ad altri soci, quindi consentire di alleggerire la posizione finanziaria, di incassare dei denari che potrebbero migliorare il profilo della società. Poi qui c'è stata anche la promessa dei vertici che nel 2012 sarà distribuito un dividendo e che il business potrebbe comunque garantire una redditività simile a quella dell'anno scorso, e quindi il titolo è stato premiato. Snam più 1,1%, qui invece c'è la cosiddetta febbre da scorporo. Cosa significa? Significa che il governo di fatto ha imposto ad Eni di vendere la Snam, attualmente oggi Eni controlla più del 50% di Snam, ci saranno partite molto forti di queste azioni di Snam che finiranno sul mercato, bisognerà vedere se ha premio o no rispetto ai corsi di borsa, però intanto il titolo sale. Migliori e peggiori, bonifiche ferraresi più 12,81%, anche lì no, un'ipotesi di cessione dello Stato? Sì, è la Banca d'Italia, il pacchetto di controllo, e come dicevamo l'altro giorno, sì. Visto che vende tutto, poi bisognerà fare un'opa. Quindi Ferrovie Nord Milano più 8,12%, risanamento più 5,20%, First Capital più 4%, fronte opposto invece... Prem finanziaria meno 6,54%, Unipol sulle privilegio meno 5,60%, debole comunque Unipol oggi in borsa. Di questo parliamo dopo le informazioni sul traffico. Grazie intanto a Ceo Condine. Grazie a voi. Dicevamo della vicenda Fondiaria Sai, che conosce nuovi gialli oggi, gialli insomma. C'è un articolo su Sole 24 Ore di Moria Longo su questo, in cui sostanzialmente si ricorda come l'ISVAP, che è l'autorità di vigilanza sul mondo assicurativo, ha presentato una denuncia alla Procura di Milano argomentando che alcuni numeri dei bilanci della compagnia Fondiaria Sai potrebbero essere errati, in particolare i dubbi riguarderebbero le riserve tecniche relative all'RC Auto, che stando ai calcoli del bilancio 2009, in questo caso non 2011, ammonterebbero a 10 miliardi di euro. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione della Fonsai decide sull'operazione di fusione con Unipol, che vedrebbe Unipol al 66,7% del nuovo agglomerato tra appunto Fondiaria Sai e Unipol. In questo ricordo, visto che parlavamo dell'ISVAP, che il figlio del presidente dell'autorità di vigilanza sui mercati, sulle assicurazioni, ossia Giancarlo Giannini, il suo figlio Andrea ha lavorato nel gruppo Fondiaria Sai tra il 2005 e il 2006. Devo dire che anche il figlio del presidente della Consob di allora, Lamberto Cardia, il figlio era Marco Cardia, è inquilino di un prestigioso appartamento di un palazzo del pari di proprietà dei Ligresti. Nulla di illegale, ma sull'opportunità che il figlio del presidente dell'Authority lavori per una compagnia di assicurazione che il presidente deve vigilare non mi sembra il massimo. Angelo Mincuzzi, buonasera. Buonasera. Allora Angelo, vicenda dell'ISVAP che si sveglia un po' tardi, ho capito male io? L'ISVAP ha fatto delle ispezioni l'anno scorso, due anni fa. Certamente ieri ha consegnato un'integrazione del vecchio esposto e quindi una nuova denuncia, che non conosciamo nella sua interezza. Quello che siamo riusciti a capire è che si riferisce ad alcune poste, diciamo, del bilancio, cioè sarebbero quelle relative alla LRC Auto, che sare le riserve tecniche dell'LRC Auto, le cui cifre non collimerebbero con gli accertamenti fatti dagli attuari dell'ISVAP. Non sappiamo esattamente a quali anni si riferiscano queste cifre. Se 2009 o 2000, o O, a, 2011. o prima del Sì, no, il 2009. dato di fondo, però, al di là di quello che poi scoprirà e verremo a sapere l'ISVAP, è notiamo un'autorità di vigilanza che si sveglia un po' tardi. Cioè, questa è una società che affonda su 1,4 miliardi di debiti, almeno 1,6 miliardi, di cui tutti fatti per alcune operazioni, la parte in realtà da anni e vita non va così male nel gruppo Fondere, sai, sono più che altro le operazioni immobiliari. Sì, io credo che la Procura di Milano in qualche modo accerterà perché anche l'ISVAP si sia mossa così tardi. Che Cosa vuoi dirmi con questo? l'inchiesta è all'inizio, l'inizio ed è un'inchiesta molto ramificata, per Che cui. potrebbe coinvolgere anche l'autorità di vigilanza, cioè chiedersi perché non sei intervenuta prima, perché hai lasciato che Fondiera Assai accumuli o accumulasse 1,6 miliardi di debiti in quel modo? Non è possibile dirlo con certezza adesso, ma non si può escludere. Interessante. Direi questo. No, interessante anche perché quel gruppo lì è stato gestito in maniera un po' strana, eh? Al di là delle consulenze che il proprietario. Salvatore Ligresti si faceva pagare, poi essendo proprietario, si faceva pagare delle consulenze per la sua società, 40 milioni di euro in 7 anni. Ma pensate, insomma, l'ex amministratore delegato Fausto Marchionni si è dimesso a inizio 2011 e però ha preso 10 milioni e mezzo di euro di buonuscita. Faccio notare che nel 2010, ultimo bilancio firmato da Marchionni, il gruppo ha perso 1 miliardo. E prendere una buonuscita da 10 milioni e mezzo per aver perso 1 miliardo, mi chiedo cosa avrebbe preso se avesse guadagnato 1 miliardo. Ma poi nel 2011, con un gruppo comunque piegato da 1 miliardo di debiti, i membri del consiglio di amministrazione di Fondiera Assai hanno ricevuto compensi per quasi 31 milioni di euro. Ionela Ligresti 2 milioni e mezzo, vicepresidente Paolo Ligresti 2 milioni e 100, ex vicepresidente Giulio Ligresti 840 mila euro e appunto 10 milioni e mezzo, compresa la buonuscita Fausto Marchionni. Si cercherà di capire anche come funzionava, da quello che tu hai saputo sull'inchiesta, la governance di Fondiera Assai, cioè la sensazione è che tutto si tenesse assieme, no? Sì, sicuramente questo è uno degli aspetti che gli inquirenti stanno cercando di esaminare, stanno cercando di capire anche le operazioni con le parti correlate, perché ne sono state fatte molte da Fonsai e Milano Assicurazioni e sono tutte operazioni che prevedevano uno schema simile e sostanzialmente terreni che le società Milano Assicurazioni in particolare vendeva alla IMCO, che è una delle due società per le quali la Procura ha chiesto il fallimento. Contemporaneamente veniva firmato un contratto, che prevedeva che la IMCO avrebbe costruito dei centri commerciali, degli edifici e così via, che sarebbero stati riacquistati dalla compagnia di assicurazione. Ecco, queste operazioni sono sotto la lente, della Procura, che vuole accertare se siano state, delle operazioni, come dire, lecite oppure Oppure nascondessero un qualcosa modo per far girare sotto, dei fondi, un una modo per far girare dei sovraffatturazione per far fondi. girare dei fondi. Ultima domanda, giustamente scrivono alcuni ascoltatori, ma i sindaci, cioè il collegio sindacale, dov'era? Perché è vero che c'è l'ISVAP, è vero che c'è un consiglio di amministrazione, ma ci sono anche i sindaci dentro una società. Sui sindaci, infatti, quello dei sindaci è anche un altro capitolo, perché, per esempio, se si fanno le visure delle varie società, del gruppo Ligresti, si vede come i sindaci siano sempre gli stessi, sostanzialmente. E quindi i sindaci si sono, diciamo, svegliati quando il fondo Amber ha fatto la sua denuncia, quindi hanno dovuto replicare, hanno risposto e hanno segnalato questi fatti anomali. Il problema è che i sindaci in quel momento sedevano negli anni passati Eh certo, e non hanno segnato nulla. 18 e 8 minuti, stavamo finendo un ragionamento prima dell'interruzione, che diceva appunto attenzione sulla vicenda Fondire Assai, la procura vuole vederci chiaro anche su chi era preposto a controllare. Adesso però cambiamo radicalmente tema, perché ricorderete che lunedì abbiamo lanciato assieme a Oscar Giannino questa iniziativa che poi riguarda tutta Radio 24, a partire da Focus Economia e dal 9 in punto, ossia Disperati Mai, un appello perché chi è disperato, gli imprenditori disperati, quant'altro, un appello perché ci scriva, almeno si sfoghi, non possiamo fare molto altro. Prima di leggervi stanno arrivando centinaia, e lo dico, centinaia di mail con una difficoltà anche di gestione da parte nostra. Prima di leggervi alcune di queste mail, però, vorrei fare un'operazione che alcuni chiameranno forse demagogica, forse populista, ma non me ne frega nulla. Cioè, non è che la rubrica "ma cos'è questa crisi" l'abbiamo interrotta, anzi, nella prima parte del programma non l'abbiamo data, ma la ridarei, perché oggi qualche notizia carina sulla crisi degli altri, poi leggeremo la crisi di quelli che invece conosciamo noi. C'è, mi dispiace dover fare questo raffronto tra la disperazione degli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani che adesso leggeremo, e invece la crisi di... che non c'è in altri settori. Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Per esempio, non c'è per l'ex, diciamo, assessore della Regione Lombardia Stefano Maullu, si è dimesso 3 giorni fa come assessore. Però pensate un po', ha trovato lavoro in un tempo rapidissimo, sarebbe da segnalare la sua agenzia di collocamento, perché dopo nemmeno 3 giorni è il nuovo presidente della TEM, la tangenziale esterna milanese, in carico da 60.000 euro l'anno, ai quali si sommano i soldi che Maullu incassa come consigliere lombardo. E allora il nostro primo applauso va alla rapidità e alla bravura di Maullu nel trovare un posto di lavoro in nemmeno 3 giorni, 2 giorni e mezzo. E poi un applauso va anche ai 35 onorevoli ribelli, Bravehearts, cuori di leone. Hanno fatto ricorso alle vie legali per sottrarsi alle norme che danno una stretta alle pensioni dei parlamentari. Sostanzialmente, secondo questi 35 onorevoli, far cadere la tagliola sui vitalizi è un'ingiustizia. Se prima potevano andare in pensione a 50 anni... ora dovranno aspettare 60 o 65, gli italiani che vanno a 67 ringraziano. E gli avvocati della Camera rispondono: i tagli nascono dall'esigenza di dare un contributo al contenimento delle spese del Paese, visto che avete appena alzato l'età pensionabile per noi comuni mortali. E la sentenza definitiva si avrà fra 20 giorni, ma i Bravehearts, che citavo, i 35 onorevoli ribelli disposti a qualunque cosa pur di mantenere vitalizio, sono 17, sono ex leghisti, tra cui Edward Ballaman, condannato per uso improprio dell'auto blu, 5 Forza Italia, 3 ex AN, 5 dell'Ulivo, 2 di Rifondazione e 1 dei Verdi. Un applauso anche per i 35 cuor di leone. Una buona notizia vera invece arriva dagli azionisti di Citigroup, perché per la prima volta in una banca d'affari americana viene rifiutato un bonus a un manager, che non è un manager qualunque, è il numero uno, Vikram Pandit. Voleva assegnarsi 15 milioni di dollari di bonus, nonostante le azioni della Citigroup dall'inizio crisi abbiano perso l'80% del loro valore. E nel 2011 già lui aveva avuto $1.670.000 di stipendio base, $5.300.000 di bonus, un pacchetto da 40 milioni. Insomma, l'assemblea di Citigroup ha rifiutato un piano per altri 15 milioni al numero 1. Chissà che non cambi, qualcosa. Questa è la crisi degli altri, questa è la crisi di chi la crisi non la vede. E invece purtroppo adesso apriamo una pagina che manterremo aperta per tutti questi giorni e settimane, iniziando a raccontare a titolo emblematico alcune delle centinaia di lettere che ci sono arrivate. piacere. Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono un eroe. Sono 23 le vittime dal 1 gennaio, il primato va al Veneto, 9 suicidi, ahimè. Ieri la fiaccolata, l'iniziativa di Radio 24, abbiamo ricordato, l'indirizzo è disperati mai, tutta una parola, @radio24.it. A Padova è nata Speranza Lavoro, associazione dei familiari degli imprenditori, dei lavoratori e degli imprenditori e dei lavoratori che si sono suicidati. Ricordo anche che la Confartigianato di Asolo Montebelluna ha un numero verde 800 130 131. E poi la Regione Veneto ha istituito un fondo da destinare agli imprenditori in difficoltà, un fondo antisuicidi, lo apprendiamo, 6 milioni di euro, è stato soprannominato fondo antisuicidi, forse il nome non è dei migliori, ma meglio che ci sia il fondo. Professor Domenico De Masi, buonasera. Non è ancora in collegamento, allora aspettiamo un attimo Domenico De Masi, mentre ricordo anche che c'è una rete di psicologi, si chiama Terraferma, fa parte dell'associazione Imprese che Resistono, per fornire ascolto e supporto gratuito a imprenditori artigiani in difficoltà. I riferimenti sono tutti sul sito www.terraferma-icr.it. E allora, mentre aspettiamo che arrivi Domenico De Masi, iniziamo a leggere alcune delle lettere. Ripeto, sono solo a carattere simbolico e emblematico, non posso in questo momento leggere centinaia di email, stiamo cercando di raggrupparle tutte in una puntata, in una giornata anche speciale di Radio 24. Vi do però purtroppo alcuni esempi. Allora, buongiorno, Barisone Giannino. Vabbè, sono un piccolo artigiano del Cunense. Assieme a mio socio siamo proprietari di 5 veicoli mezzi d'opera, cioè camion da cava, più 3 betoniere. Il lavoro è fermo. Al momento lavoriamo quando c'è qualche trasporto, solamente io e mio socio, con la conseguenza che i dipendenti sono tutti in cassa integrazione. Inoltre abbiamo preso la decisione di vendere le 3 betoniere e lasciare a casa i dipendenti delle medesime, a nostro malincuore, in quanto sono amici e hanno anche dei figli, più di uno a testa. E poi fa un calcolo, fa il calcolo di quanto gli costa il gasolio al giorno, il dipendente al giorno, tasse incluse, l'incasso al giorno, e sapete cosa viene fuori? Viene fuori un saldo negativo di 104 euro al giorno. E conclude l'ascoltatore che si firma Marco, ieri ho saputo dai dipendenti che non stanno nemmeno ricevendo la cassa integrazione. Siamo in Piemonte e quando parliamo di imprenditori in difficoltà, in crisi, disperati tra l'orgoglio e la paura, parliamo anche dei loro dipendenti, non solo dell'imprenditore. Io non leggerò i nomi, leggerò solo le iniziali, così anche se voi ce li scrivete. Salve, sono un piccolo imprenditore che opera nel Catanese, sono padre di 2 figli, Antonio 7 anni e Carlotta 4 anni. Sono in società con mio cugino, abbiamo un ingrosso di abbigliamento dove nel 2004 abbiamo creato anche un marchio e siamo riusciti ad aprire 3 negozi. Quello che è successo sin dall'inizio del 2012 ha dell'inverosimile però. Nel mese di gennaio abbiamo avuto un calo dell'80% nel fatturato dovuto allo sciopero di circa 10 giorni del movimento dei forconi, che ci ha letteralmente messo in ginocchio. Il mese di febbraio abbiamo fatto un meno 80% rispetto al febbraio 2011. Purtroppo nel mese di marzo mi sono trovato seriamente in difficoltà e non sono riuscito a pagare gli assegni. Premetto che intrattengo rapporti con la mia banca da oltre 7 anni, dove abbiamo 4 conti correnti, compresi quelli personali. Ho chiesto una piccola scopertura alla mia banca, mi hanno chiuso le porte in faccia e non mi hanno voluto aiutare. Avevo chiesto anche una piccola garanzia a un consorzio che me l'ha accettata, ma la banca non ne ha voluto sentire. Ho dovuto licenziare tutti i miei dipendenti. Adesso siamo solo io e il mio socio. Praticamente una situazione disperata, con assegni protestati, debiti verso fornitori, la banca che ci vede come dei delinquenti. Buongiorno, sono un piccolo commerciante tessile con problemi economici dovuti a questa crisi maledetta. Con 6 persone che lavorano con me, questo fino a 3 anni fa era un lavoro che mi piaceva. Adesso ho una ripugnazione tremenda per una concorrenza sleale senza precedente con cinesi che lavorano 24 ore su 24 mentre i controlli vengono fatti solo da noi. Loro non fanno scontrino fattura se vai a comprare. Insomma, una bolgia infernale. Non so più cosa fare. Aiutatemi. Gentili signori, sono come tanti altri un imprenditore in difficoltà. L'attuale crisi che ha colpito in particolar modo il mio settore, l'edilizia, non mi permette di mantenere in vita la mia azienda. Quindi ho deciso di portare a termine questa mia esperienza imprenditoriale e continuare come agente di commercio la mia attività. Ovviamente, attualmente sono impegnato con le banche e con i fornitori. Non ho la possibilità di far fronte nel breve ai miei impegni. Ho pensato quindi di proporre ad una delle banche con cui lavoro un'operazione di consolidamento per un importo di 80.000 euro. Ormai è un mese che ho prodotto bilanci ed altro e non ho avuto nemmeno una minima risposta. C'è da tenere presente che dal punto di vista patrimoniale ho immobili per circa 1.200.000 euro e che non ho alcuna pendenza o sofferenza in alcuna centrale rischi. Le abbiamo scelte volutamente molto molto diverse geograficamente, anche come ramo d'attività. Con una battuta, se non fosse un argomento tragico, mi verrebbe voglia di dire: ma andate dall'assessore, ex assessore regionale Stefano Maullu, che è riuscito in 2 giorni e mezzo a trovare un nuovo lavoro. Minuti, lo so, vedo molte mail che dicono: ma attenzione, non c'è da contrapporre necessariamente il settore pubblico alle difficoltà del settore privato. Quello che è incredibile è vedere, a mio avviso sì, che 35 parlamentari si costituiscono in un gruppo di ribelli perché ritengono sbagliato il taglio dei vitalizi, mentre c'è un paese che soffre, alle loro spalle. Questo è obiettivamente inaccettabile, anche perché se la politica, lo dico col massimo rispetto, non capisce questo, va verso un suicidio collettivo, come facevano gli unni, no? Quando moriva il capo. E attenzione, perché non abbiamo segnali contrari. Io adesso vi leggerò anche altre email che sono arrivate e altre testimonianze che abbiamo avuto, ma dalla politica il silenzio è totale. Buongiorno, sono un libero professionista e ho 47 anni, ho dedicato più di 20 anni al mio mestiere. Adesso mi ritrovo assolutamente solo e con nulla in mano. Per mantenere il mio studio sul mercato ho sempre investito i miei guadagni in software, hardware e avanzati e costosissimi, tutti pagati con la licenza, tutti regolarmente acquistati. Poi nel 2009-2010 i clienti hanno iniziato a diminuire a non dare più lavoro. Nel 2011 pochi clienti rimasti non hanno pagato il lavoro commissionato ed eseguito, è un architetto che parla, e tutto ha cominciato ad andare a rotoli. Dal 2012 ho dovuto lasciare gli uffici che condividevo con altri colleghi perché non potevo più permettermi la mia parte di affitto, e per me è stato anche molto umiliante. Entro giugno dovrò chiudere ufficialmente lo studio associato dopo aver pagato fornitori e notaio. E poi, oltre al danno, la beffa. Avevo un conto Fineco, ma alla fine del 2011 sono rimasto scoperto per circa 1000 euro per 15 giorni. Il risultato è stato che Fineco ha chiuso unilateralmente il contratto ed il conto, dopo che avevo regolarmente coperto il debito. Non contenta, Fineco, senza una sola telefonata, ha proceduto a fare una segnalazione sulla rete bancaria imponendo un blocco per soggetti a revoca. In pratica, ho scoperto che non posso richiedere carte di credito o assegni o qualunque finanziamento anche minimo in nessun'altra banca fino a tutto il 2013. La mia nuova banca, il Credito Artigiano, mi ha fatto una carta di credito prepagata, ma anche con quella non posso effettuare pagamenti online. Ho finito i soldi, non posso chiedere finanziamenti, non posso fare lavori che prevedano anche minimi pagamenti online, non ho altre commesse. Se non fatturo anche un piccolo lavoro entro la fine del mese non ho più sostentamento. Io forse non ho più la mente lucida per vedere o trovare soluzioni. Sono sfinito fisicamente e mentalmente nella ricerca vana di lavoro e nel superamento impossibile dei mille pagamenti o impedimenti. Vi chiedo solo la cortesia di un buon consiglio e sento che sono a capolinea, troppo stanco, troppo solo in una società dove la creatività, la capacità tecnica e professionali non hanno alcun valore e dove l'onestà si paga a caro prezzo. Qui lo dico perché sono 5 lettere su centinaia, adesso continuerò anche a leggere le altre. Qui emergono due canali forti con le banche, c'è un rapporto insomma che banche non funziona, non dovete fare i benefattori di nessuno, sono i nostri risparmi che gestite, quindi usate la sana e la prudente gestione, ma questi casi o abbiamo tutti ascoltatori pazzi oppure c'è un accanimento. Io capisco rientrare, abbiamo appena raccontato che Mediobanca è esposta per 1 miliardo con Fondiari Assai, ma come ha fatto Ligresti ad avere 1 miliardo, a fare 1 miliardo di buco con Mediobanca e poi per 1.000 euro, 10.000 euro gli blocchi il conto, non gli dai 80.000 euro? E Don Verzè? Buongiorno, 47 anni, vorrei raccontare la mia esperienza da piccolo imprenditore durata 18 anni, poi conclusosi a causa di enti come gli studi di settore, l'ufficio Entrate Equitalia e le banche. La mia piccola impresa l'avevo creata dal niente, figlio di operai. Ero arrivato ad avere in forza lavorativa 7 dipendenti assunti in regola in libro paga. Ho pagato i dipendenti e ne sono orgoglioso, ma oggi mi sono arrivate 7 notifiche da Equitalia per un valore di 42.000 euro. Che è raddoppiata in 7 anni, visto che ho chiuso nel 2005. Come se non bastasse, mi chiedono di pagare in 5 giorni. Insomma. Befera! Il marito di mia figlia perde lavoro, 50enne, non trova di meglio che autofinanziarsi o vendere servizi, si è arrabbiata per alcuni anni accumulando debiti con alcune banche, non trova il coraggio di informare la famiglia e a gennaio compie l'impietoso gesto di togliersi la vita. Ormai siamo nel caos più totale, risorse morali ed economiche sotto zero. Disperata sì, tanto, lavoro, arranco, la mia forza è l'onestà e la testa alta, le banche mi trattano come l'ultima disgraziata sulla terra, questo mi uccide dentro, quando lavoravo bene ricevevo, quando entravo almeno un buongiorno signora, ora ho la peste, mi evito nonostante tutto il mio passato di persona che pagava, il mio motto era prima il dovere e poi il piacere. Durante la settimana cucio, il sabato e la domenica parto e vado a vendere, sono disperata ma vado avanti riempiendo la mia borsa di stracci. Io devo chiudere, ma non chiudiamo con questa linea che abbiamo aperto, disperati mai, @24.it, lo vedete, quello che leggiamo, e vi dico che ne abbiamo selezionate anche tra le più morbide per non trasformare questo programma in una cosa, diciamo, che faccia venire il magone, e sono le più morbide in assoluto. Adesso però voglio la base Allegra, per favore, e me la date, perché ho deciso di darla. E mi abbassate la base di chiudere il programma, per favore, grazie. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Non piangiamo, che poi si arrabbiano i nostri onorevoli. A domani dalle 17 in poi, un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.